ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Tributi e mercati di qua, due di denari di là, la burocrazia che confonde la gente, da illustrare con Deborah e il buon Mauro a spiegare. Da questa emittente anche tu ti potrai informare. Due di denari Meazza e la Rosciani con ospiti mondiali che i tuoi denari sapranno fruttare. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Proprio una bella sorpresona. Buongiorno intanto. Buongiorno cara Deborah. Senti, avrei una richiesta da farti, un po' inedita per questo lunedì mattina. Sì, sentiamo se la sì. So. Potresti indossare la giacca dell'esperto risponde cortesemente? Ma certamente, è un piacere anche perché come ogni mattina ho letto religiosamente le pagine di Norme e Tributi e come ogni lunedì mattina l'inserto dell'esperto risponde, il fascicolo, allegato a Cluso. Quanti quesiti ci sono peraltro nell'allegato del lunedì? Sono diverse decine, quindi ci vuole il suo tempo, bisogna alzarsi per tempo tutti i lunedì mattina. Questo quesito qua però era uno di quelli portanti per cui dovresti conoscere la risposta. Sono proprietario di un appartamento in una palazzina composta da 12 condomini, ci sono 12 condomini. Un ex condomino moroso, 7.000 euro di debito, è stato sfrattato, il suo appartamento è stato venduto all'asta. Il nuovo proprietario acquirente, chiedo, dovrà rispondere del pagamento per l'intero importo oppure da una certa data in avanti? Nel secondo caso si possono chiedere all'amministratore i mancati introiti per negligenza nell'aver fatto lievitare l'importo che avrebbe dovuto corrispondere al condomino moroso? Che cosa ha detto l'avvocato Cirla, che è il nostro esperto di questioni di rogne immobiliari? Allora, l'avvocato Augusto Cirla, che abbiamo avuto anche diverse volte qui ospite, due di denari, dice: allora, attenzione, perché chi subentra al condomino è obbligato solidalmente, insomma, sono fatti suoi, solidalmente con il condomino a cui subentra al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Da ciò si desume che l'acquirente, quindi chi compra l'appartamento, è tenuto a pagare in via esclusiva le spese maturate successivamente all'acquisto, mentre per quelle deliberate e approvate nell'esercizio precedente alla vendita e quello in corso al momento del passaggio di proprietà, risponde in via solidale con il suo dante causa, quindi col signore che gli ha venduto l'appartamento. Mo vai a prenderlo però, perché il problema qual è? È l'asta, che l'appartamento è finito all'asta. Esattamente, è finito all'asta e che l'inquilino era moroso. E allora, a questo punto, chi subentra si ritrova a dover agire nei confronti del moroso o far agire l'amministratore di condominio in modo da poter andare a recuperare questi tributi, quindi la sorpresa, questi contributi, pardon. La sorpresa qual è? La sorpresa è ritrovarsi un ammanco avendo comprato all'asta e toccherebbe appunto informarsi preventivamente di quali possono essere i debiti lasciati dall'ex proprietario. Questa è la risposta molto poi più articolata che ho riassunto stringatamente sull'esperto risponde di oggi. Se vuoi, Deborah, possiamo poi dopo la trasmissione appassarci anche per discuterne anche di questo e di tanti altri aspetti che vengono affrontati oggi dall'esperto risponde. Allora, no, scusami, mi ero distratto un attimo perché stavo perché noi non ricordiamo più che siamo anche sul Facebook ai nostri ascoltatori. È e invece vero. Dovremmo ricordarlo. Mi stavo guardando a una sciarpa che sembra che sono malata, chissà di quale malattia. No, in realtà che mi sono messo una maglietta un po' troppo scollata, quindi abbiate pazienza, ascoltatori. Qui per ragioni di sicurezza e di pulizia e di igiene viene messa, nonostante ormai siamo entrati in pieno autunno, un'aria condizionata a 1000 e quindi ci ammaleremo sicuramente per le temperature di qui dentro, non di Covid. Allora, detto questo, non era ovviamente un reclamo per te che la alzi tutte le mattine. E d'altra parte, Deborah, però lo impone il DPCM e ancora non hai visto nulla perché hai sentito esatto. Nel giornale radio che ben altro sta incombendo sulle nostre teste e anche nei nostri studi. Esatto. Invece raccontami un po' di che parliamo oggi. A proposito di ciò che incombe, che cosa incombe dal 28 febbraio? Perché in realtà anche questa è un'altra puntata della rivoluzione digitale della quale siamo tutti A, protagonisti, B, malcapitate, vittime, perché bisogna vedere da che parte la si guardi. Insomma, dalla prossima primavera pagheremo tutti i tributi locali, un sacco di imposte attraverso un sistema digitalizzato della pubblica amministrazione, il pago PA. Le multe anche. Ecco, insomma, non volevo dirlo, ma pure quelle. Tutto quanto avremo questa grande occasione. Va a confluire dentro pago PA, pago PA e la sua app connessa che è IO. Il tutto va a comporre questa trinità digitale, e mi perdoneranno le persone religiose, però questa trinità digitale che è lo SPID da una parte, sì, cioè che non abbiamo ancora neanche finito di farla tutti quanti, che già arriva l'obbligo di pago PA. Dobbiamo ancora digerirlo, poi pago PA e poi la app IO per pagare. Qualche cosa abbiamo potuto sperimentare, chi ha fatto il bonus vacanza, ad esempio, già un pochino si è familiarizzato, qualcuno che sta chiedendo l'accesso per poter disporre cose all'INPS da giovedì scorso, primo ottobre. Il PIN dispositivo è andato in pensione. No, non te ne danno più di PIN dispositivi, invece puoi fare lo SPID. Scusa, ma non hai colto la lì. Battuta? Il PIN dispositivo per l'INPS è andato in pensione, mi è venuta così naturale. No, la teniamo da parte, lo dico a Gianmarco Ferronato e anche ad Alessandro Marco Tulli che quest'oggi è qui in presenza ad affiancare chi invece da remoto, Marco Lombardo, come sempre vigila su di noi. Marco, Gianmarco, se possiamo per favore tenere da parte questa freddura della collega Rosciani. Allora, ha fatto pena pure a me che l'ho detta. Recupera in serietà, sì. Perché adesso è lunedì, sì. E devi fare il meteo borsa. Volentieri. Ed sei tu la protagonista principale. Sai che io di mercati mastico pochino. Bene. E allora, come un po' Suarez l'italiano, ma oggi non è il momento di parlare di calcio. Allora, se volete capire qualche cosa della questione digitale, 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 è il numero per mandare SMS o WhatsApp. Dopo il meteo borsa, diciamo intorno alle 11.30, cominceremo a spiegare, a cercare di fare un po' di chiarezza su questo contorto cambiamento digitale. Adesso però meteo borsa. Meteo borsa. Allora, sarà perché abbiamo un ospite nuovo di zecca a commentare i temi finanziari di questa settimana, però la settimana parte molto bene. Ti devo dire che nell'ambiente finanziario, Mauro, circola anche il sospetto che Trump non si sia ammalato veramente fino in fondo, ma che si sia giocato questa carta un po' perché è così in clima preelettorale stava un po' perdendo in termini di popolarità e quindi è diventato un po' il presidente di tutti. Si è voluto ammalare anche lui, adesso non vogliamo giocare naturalmente su questi argomenti, però qualcuno il sospetto ce l'ha avuto, come ci confermerà Davide Biocchi, analista finanziario, è un nome peraltro molto conosciuto nel mondo del trader. Biocchi, buongiorno e grazie di essere con noi, perché in realtà lui stesso stamattina ha sondato la sua comunità chiedendo proprio se credessero o meno al fatto che Trump fosse malato e se fosse anche un po' una mossa per confondere le acque da chi teme che l'economia americana stia molto peggio di quanto non si dica. Abbiamo visto il dato sulla disoccupazione di venerdì, le borse corrono ma con un sottostante che in realtà è molto precario, che è quello dell'economia reale. Biocchi, buongiorno e grazie. Intanto ho fatto tutto il preambolo io, ma adesso le lascio raccontare che cosa dicono i suoi colleghi del panorama finanziario. Buongiorno. Buongiorno, allora, intanto grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. E poi, per agganciare il discorso di prima, sono un utilizzatore molto soddisfatto della SPID da tempo, quindi diciamo che consiglio a tutti di fare la SPID perché è molto comoda. per relazionarsi con la pubblica amministrazione. Però lei già adesso è un po' eversivo, perché noi abbiamo voluto imporre lo SPID per, in quanto facciamo sistema, già lei adesso ce lo mette sistema. Al femminile e noi, va bene, comunque non importa, per carità, lei è padrone. io mi riferivo all'identità digitale, ma sarà come l'eco, nessuno sa mai bene se è maschile o femminile. Esatto. Allora, Trump e la borsa, i mercati e il Covid. Esattamente. Allora, che cosa dire di Trump? Dunque, intanto Trump ha rubato la scena, evidentemente, voluto o non voluta che sia. La community, qualche sospetto, un po' di complottismo dietro il fatto che questa situazione potrebbe anche avere risvolti elettorali inattesi, inaspettati, perché la domanda che ci si deve porre è: ma il Trump malato è più simpatico o meno simpatico? Di sicuro i mercati cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che il Trump malato alla borsa non piace. Perché? Perché venerdì abbiamo visto che i mercati sono tornati indietro di parecchio. Poi oggi, visto che lui ieri è uscito, ha fatto un giro, insomma, non si sa bene se tornerà a casa a breve oppure no, fondamentalmente oggi i mercati stanno di nuovo sorridendo. Perché i mercati si sono preoccupati quando Trump ha dichiarato la sua positività? Perché questo genera incertezza e i mercati nell'incertezza vengono venduti. Lo si può capire facilmente, un conto è se hai i soldi nella tua tasca. Un'altra cosa è se nella tua tasca hai qualcosa che può essere molto volatile, cioè il cui prezzo può andare su e giù trasformando i tuoi profitti magari in perdite, e allora in quel caso se c'è nervosismo preferisci portare i soldi a casa e star fuori. E cos'è che rende nervosi tutti? Beh, non si capisce chi possa vincere, non si capisce se le elezioni ci saranno, qualcuno dice si può chiedere il rinvio, e Trump ci aveva già provato per la faccenda legata al voto postale che proprio non gli andava giù. Insomma, la situazione è di grande nervosismo e anche i democratici sono un po' nell'impasse. Avevano fatto del tema della gestione del Covid maldestro da parte di Trump un loro piatto forte della campagna elettorale e ora si trovano un po' in una situazione delicata, perché non si capisce più bene se attaccare Trump sul Covid gli fai un favore oppure gli dai contro, nel senso che se lui diventa più simpatico per questo, cioè perché contrae il coronavirus, allora forse è meglio evitare. Quindi potrebbe cambiare qualcosa nella campagna elettorale. Detto questo, la reazione dei mercati oggi c'è, l'Europa va bene e va bene l'Italia, che era stata quella che se l'era cavata meglio anche venerdì, perché da noi ci sono anche altri temi, ci sono i temi delle banche, delle fusioni. Esatto, e adesso li andiamo a definire. Biocchi, intanto faccio la consueta fotografia sull'andamento di borsa proprio in questo momento: più 0,8% per il FTSE MIB Piazza Affari, più 0,87% Parigi, più 0,7% circa Francoforte e Londra, più 0,50%. Anticipavamo i temi di seduta e allora è stato finalmente, se ne parlava ormai da settimane, era data per certa questa operazione, mancava proprio la formalizzazione e la data, Nexi e SIA si sposano, nasce quindi il campione europeo, forse anche internazionale, dei sistemi di pagamento. Nexi oggi guadagna il 3%, aveva però corso già moltissimo sulla scia dei annunci e delle speculazioni, delle anticipazioni su questa operazione. Chi è questo attore? Che cosa faranno insieme Biocchi? Chi è SIA? Peraltro una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che entra anche come socio rilevante nel nuovo attore con il 25% credo del capitale. Sì, praticamente che cosa succede? Che ci sarà una fusione per incorporazione, cioè le due società, Nexi e SIA, dove SIA è controllata, come si diceva esattamente poco fa, dalla Cassa Depositi e Prestiti, andranno a fondersi una nell'altra e andranno a creare, come da comunicato loro stampa, una società high-tech europea leader nei servizi tecnologici e nelle infrastrutture di pagamento. Questo cosa significa? Che creeranno un polo così significativo, perché tutti noi Nexi, non so, la sappiamo, la conosciamo perché quotata in borsa, ma pochi magari ricordano che è la vecchia Cartasì, che già si era... Diciamo che molti la conoscono perché ce l'hanno in portafoglio. Ecco, esattamente, questa. Perché ce l'hanno nel portafoglio quello vero più esatto. Che quello virtuale, esattamente. Esatto. E quindi che cosa succede? Che questa formerà una realtà da 1,8 miliardi di ricavi, quindi una roba enorme che diciamo sarà, se non la più grossa, tra le più grosse in Europa, e il mercato ha battezzato questo come un grande successo. Quindi è vero che oggi passa attualmente poco oltre il 3% Nexi, ma stamattina andava ancora meglio ed ha già corso molto. Si colloca come un player importantissimo e secondo me in un mondo che va sempre più verso la digitalizzazione questa è un'operazione che il mercato non poteva che gradire e probabilmente gradirà ancora di più quando? Beh, quando in futuro scopriremo quali saranno i rendimenti sotto forma di dividendi che questa nuova società andrà a fare. Rimarranno quotati in borsa, probabilmente Nexi continuerà a mantenere questo nome e questo è nell'interesse di tutti, visto che la Cassa Depositi e Prestiti in fondo rappresenta un po' la nostra eccellenza, la nostra collettività. E questa è una delle prime tre operazioni che riguardano il settore finanziario che sta facendo far meglio la nostra borsa degli altri listini. Vedremo se si formalizzerà più avanti un altro matrimonio nel settore bancario, anche qui le speculazioni sono tante, ma andiamo a qualcosa di un po' più concreto, Mauro. Ma infatti Biocchi, volevo chiederle, ma per la settimana che cosa possiamo aspettarci? Perché vabbè, adesso al netto dei grandi della terra, appunto, come il presidente Trump, ma proprio nel piccolo delle borse, diciamo la nostra e quelle europee, i movimenti delle banche centrali, qual è l'aspettativa dei mercati in questo momento? Cioè una certa tranquillità mi sembrava di cogliere oppure no? Beh, diciamo che i mercati sono in quella che si chiama una fase laterale, cosa vuol dire? Che i valori più o meno giorno dopo giorno evolvono quasi allo stesso modo, però è una fase laterale un po' nervosa, cioè non è che i prezzi sono uguali, oggi vanno un po' su, domani vanno un po' giù secondo i temi. E forse da questo punto di vista la fase laterale continuerà, mi aspetto, ma il nervosismo potrebbe aumentare perché sarà soprattutto quello che verrà da Trump, quello che verrà dalla gestione del Covid suo personale, i risultati delle cure a cui sarà sottoposto, che muoveranno tutto. Questa è una settimana che ha anche dei dati macroeconomici, oggi c'erano i PMI, cioè i direttori di acquisto che dicono che tipo di sentiment hanno verso l'economia. Oggi pomeriggio usciranno questi dati in America, l'indice si chiama ISM, Index of Supply Manager, sono di nuovo direttori di acquisto e hanno un certo peso, ma questa settimana passeranno in secondo piano, come credo il discorso di Powell atteso e anche quello di Christine Lagarde, che dovranno dire delle cose importanti, che i mercati ascolteranno, ma rimarranno con la radiolina, diciamo così, stile anni 70, orientati verso tutto quello che da Twitter soprattutto arriverà da parte del presidente Trump. Attenzione a come parla della radio, mi raccomando, Biocchi, sempre grande. Io sono un nostalgico, diciamo, e un grandissimo ascoltatore di radio, quindi mi piace tantissimo. Mi sveglio al mattino anche con la radio, devo dire. Allora, devo dire che in borsa ci sono quattro temi, secondo me, in questo momento. Telegrafico, perché siamo in chiusura? Esatto, sono le banche con le fusioni, sì, e anche con l'aumento di capitale di BPE. I titoli del settore oil che purtroppo nessuno sta gradendo, quindi abbiamo detto le banche, la BPA, i titoli del settore oil e poi questa situazione di Nexi che promette di raccontarci ancora qualcosa di interessante. Su Biper Banca ci arrivo io tra poco con il collegamento di borsa fra pochissimi minuti. Grazie a Davide Biocchi, ci risentiamo in un altro appuntamento in futuro con il Meteo Borsa. Adesso è tardissimo, abbiamo un velocissimo giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, na-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Cara Deborah, sarò brachilogico. Oggi giornata dell'educazione. Non stai bene, è una malattia grave, è grave. Oggi giornata dell'educazione assicurativa, ma noi ne parliamo domani perché domani Alfabeto del Risparmio, come ogni martedì già da settembre e quindi anche nel corso di questo mese di ottobre, mese dell'educazione finanziaria, si sta svolgendo online, naturalmente, nell'ambito di questo mese dell'educazione finanziaria, un convegno dedicato alla educazione assicurativa. Noi di assicurazioni parliamo domani, è in corso in questo momento una tavola rotonda molto importante, l'evento prosegue fino alle 12:15. www.quelloche conta.gov.it è come sempre il portale di riferimento. Banda larga, le scuole che cosa devono fare? Le scuole, allora, finalmente, cioè, allora, mi stavo facendo travolgere dall'entusiasmo, chiedo scusa. Perché c'è, sì, quella malattia scattano, di prima. Sono pronti i voucher, sono pronti i sostegni per le scuole che vogliono appunto avere sostegni per il digitale. Però attenzione, perché Carmine Fotino lo ha segnalato venerdì sul Sole 24 Ore, si è sbloccato il decreto sul piano scuola, si è sbloccato il decreto per dare i voucher per la banda ultralarga per le famiglie a basso reddito. aspettate un attimo perché serve ancora un portale. Quando è pronto il portale ci vorrà ancora qualche giorno, speriamo pochi, ve lo diciamo qui a Due di Denari, magari ne parliamo diffusamente. Assolutamente, senti, le altre notizie le trasferisco domani perché è molto tardi, andiamo con il nostro sportello reclami dei Due di Denari e poi andrei dritta dritta Gianmarco alla borsa delle 11.30, oggi l'annuncio io senza farlo fare a Mauro, ti dispiace? No, no, ma dopo il dillo a Due di Denari facciamo le borse. Dillo a Due di Denari. Buongiorno ragazzi, mi chiamo Giuseppe. Io con il bonus vacanza con la mia famiglia di 4 l'ho sfruttato. Ho fatto una settimana in campeggio 5 stelle a Jesolo. Ho aggiunto 80 euro. Oltre il mangiare era fuori. Sono stato molto soddisfatto. È stato semplice raggiungerlo. Grazie mille. Ma si parla di tutto, ma delle partite IVA non si parla più. 2 mesi o 3 di bonus e poi niente. E queste persone cosa fanno? Mica hanno ripreso a lavorare neanche loro. Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di Denari. Adesso addirittura metterci così un po' queste sembianze da robottino, magari no, dai. Sai che Marco Lombardo è sempre molto attento a cogliere anche questioni musicali che possano adattarsi bene e devo dire che effettivamente i Daft Punk qua ci stanno bene perché come dicevamo parliamo di questa rivoluzione digitale. Devi sapere, cara Deborah, che tutto diciamo andrà a subire un'accelerazione fortissima a seguito del decreto legge 76. Il decreto legge 76, detto anche certo, il decreto legge per la semplificazione e l'innovazione digitale, sì. Mentre noi eravamo in tutt'altre faccende affaccendati, i mesi passati, sì, ci ha cambiato abbastanza le cose e ce le cambierà parecchio a partire dalla primavera del 2021, dal primo di marzo, perché sostanzialmente, ma io ricordo così un proprio fior da fiore, perché poi abbiamo ospiti di valore mondiale che ci intratterranno sul punto. Allora, dal 28 febbraio del 2021 lo SPID o la SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale e la Carta di Identità Elettronica diventano credenziali uniche per accedere ai servizi online della PA. Già come abbiamo ricordato per l'INPS il PIN dispositivo non viene più rilasciato, si può continuare a usare ma è ad esaurimento, bisognerà tutti passare allo SPID o alla SPID come volete. Poi pagamenti digitali, che saranno un po' il tema caldo di questa mezz'ora di trasmissione, perché il 28 febbraio 2021 è anche la data ultima entro la quale le pubbliche amministrazioni in genere, quindi parliamo dei comuni, degli enti pubblici, eccetera, dovranno aderire a questa piattaforma che si chiama PagoPA e quello sarà il sistema esclusivo per pagare le imposte, le multe, i contributi, insomma anche mi immagino le tasse universitarie, ecco, possono essere anche voci che uno non si aspetta e che verranno a confluire lì dentro. E poi progressivamente i servizi digitali di ogni amministrazione dovranno essere resi disponibili sulla app che è connessa, che si chiama IO, che abbiamo imparato a conoscere quando abbiamo dovuto attivare, se l'abbiamo fatto, il bonus vacanze. E già a questa app oggi si accede tramite, indovina un po', la SPID o lo SPID e la carta d'identità elettronica, la CIE. È un'app, questa app IO, che integra il PagoPA. Secondo me non si capisce un granché, nonostante tutto il mio sforzo di esposizione. No, tu hai spiegato benissimo, ma c'è un'ultima considerazione forse da fare. Siccome si incarica tutta la pubblica amministrazione di fare questa transizione, sarà tutto gratuito naturalmente. Nessuno ci chiederà più il balzello, l'onere, la commissioncina per fare questi pagamenti. Ecco, ecco, su questo qui stai prudente. Adesso però... Metti già le mani avanti? Io metto le mani avanti, ma no, faccio di più. Io cedo proprio il microfono e la parola. In rigoroso ordine alfabetico, e ringrazio entrambi per intervenire qui a Due di Denari, a Patrizio Caligiuri, che è il direttore degli affari istituzionali e della comunicazione di PagoPA SPA, che poi è la società che ha appunto sviluppato PagoPA e anche la app, se capisco bene. Buongiorno dottor Caligiuri. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno dottoressa Rosciani, buongiorno dottor Meazza, grazie mille per questo invito. E poi accanto al dottor Caligiuri, Luigi Gabriele, una voce nota ai nostri ascoltatori, presidente di Consumerismo No Profit, che è la lobby indipendente dei consumatori. Buongiorno Luigi, bentornato a Due di Denari, ben ritrovato. Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Perché i consumatori insomma devono essere sempre un pochino inzigati dalle associazioni dei consumatori che vigilano su tutti questi grandi cambiamenti. Ne colgono, devo dire la verità, Luigi, uno di questi, i grandi benefici, vantaggi, cambiamenti in termini positivi. E però dicono anche, insomma, fate attenzione a questi aspetti. Vediamo, certo, perché tutto questo sviluppo che abbiamo cercato di riassumere è uno sviluppo che, come ha segnalato Luigi Gabriele anche dalle pagine del Messaggero, ad esempio, da ultimo, in qualche giorno fa, potrà comportare o delle commissioni in più o commissioni che prima non si vedevano e adesso si vedono. Da chi vuoi cominciare, Deborah? Cominciamo con il dottor Caligiuri, perché è la prima volta che interviene nel nostro programma e quindi ci piacerebbe proprio che ci spiegasse in termini semplici. Dovrebbe spiegare a mia mamma, dottor Caligiuri, che cosa sta succedendo, perché qua tanto la prima considerazione che arriverà in massa e passerà dai nostri microfoni è: sì, vabbè, ma chi non è tanto confidente con le dotazioni digitali che cosa deve fare, perché tutti adesso immaginano di dover fare tutto con il proprio telefono. E quindi ci interessa capire intanto se questa transizione, che noi abbiamo già preannunciato per il 28 febbraio, ma è dietro l'angolo, quindi sarà morbida o, come dire, dirompente da un giorno all'altro? Buongiorno a tutti voi di nuovo, grazie mille. Ma rispondo subito, in realtà noi siamo già in una fase di transizione, quindi la transizione sarà è per definizione morbida. Io comincerei dall'inizio. PagoPA, come avete citato voi, è un'infrastruttura digitale, una piattaforma che consente ai cittadini di pagare qualsiasi tributo verso ogni pubblica amministrazione, facendo triangolare semplicemente tre soggetti: l'amministrazione che deve riscuotere il tributo, il cittadino che deve pagarlo e i prestatori di servizi a pagamento che consentono questa operazione in un'unica piattaforma, in modo omogeneo, uguale per tutti i cittadini italiani. Una cosa importante, lei citava poco fa l'obbligo, diciamo, di avere un cellulare, avere un'app, avere uno smartphone, eccetera. Diciamo due cose. La prima è che non è così, nel senso che già che PagoPA non ha sostituito, ma ha integrato, ed è possibile ancora adesso, lo sarà anche in futuro, continuare a pagare rivolgendosi ai punti di prossimità, cioè, per capirci, i tabaccai o uffici postali. Quindi non c'è una sostituzione dell'offline con l'online che possa mettere in difficoltà cittadini poco avvezzi ai pagamenti digitali intesi con smartphone, computer e quant'altro. Dopodiché l'altra cosa secondo me utile da ricordare, quando ho detto prima siamo già all'interno di una transizione, è che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare PagoPA in realtà esiste da tempo, è stato più volte prorogato per venire incontro giustamente alle necessità organizzative delle pubbliche amministrazioni. L'Italia è un paese stretto e lungo, con 10.000 amministrazioni con capacità anche tecnologiche organizzative molto diverse da loro, andiamo dai grandi enti pubblici al piccolissimo comune, ed è per questa ragione, diciamo, per venire incontro alle esigenze anzitutto degli enti più in difficoltà da questo punto di vista, che si è prorogato più volte l'obbligo. Quindi diciamo che il 28 febbraio sembra essere l'ultima tappa per consentire l'onboard di tutte le amministrazioni. Del resto, da questo punto di vista, da quando esiste soprattutto la società PagoPA, noi stiamo supportando, spero nel modo, ce lo faremo sempre di più, nel modo più efficace possibile, con la nostra struttura di accounting, tutti i piccoli comuni, tutti gli enti pubblici, per favorire questa, diciamo, transizione ai pagamenti digitali, così come le istituzioni si stanno impegnando, credo, in maniera molto forte, anche con mettendo a disposizione, soprattutto per i piccoli comuni, dicevo prima, risorse economiche per agevolare gli agganci diciamo, alla piattaforma PagoPA. Lo sta facendo il Ministero dell'Innovazione Tecnologica, lo sta facendo il Ministero della Pubblica Amministrazione. Quindi, per tornare alla sua domanda, certo, siamo dentro una transizione, ci siamo complessivamente come paese, ci siamo anche ovviamente in riferimento ai pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione. Del resto sarebbe ingenuo, adesso lo dico insomma con da cittadino, immaginare che la trasformazione digitale sia un click che accade dal giorno alla mattina, certo. Come dire, una trasformazione. Siamo dentro un processo che va per correzione di errori successivi, questo è bene che noi, come dire, lo teniamo sempre molto presente quando affrontiamo questi argomenti. Allora, no, è stato chiarissimo, soprattutto vorrei sottolineare una cosa, il fatto di passare dal 28 febbraio, che poi è una domenica, quindi mi immagino che l'operatività sarà dal 1 di marzo. Comunque il fatto di passare significherà abbandonare alcuni sistemi fisici di pagamento, e questo lo dico per tranquillizzare tutti noi, me per primo. Se volete potete continuare a pagare in tabaccheria o negli uffici postali, però PagoPA è una piattaforma, perché PagoPA non è il posto dove si paga, il software con il quale si paga, quello casomai è l'app Io, di cui magari parliamo, e però proprio dal momento del pagamento Luigi Gabriele segnalava che c'è una emersione di commissioni, giusto Luigi? Beh, tu tieni conto che prima come facevi a pagare le stesse cose che adesso ti dicono puoi farlo digitalmente con PagoPA? Andavi alle poste, compilavi il famosissimo bollettino, a meno che già non te l'avevano inviato, il cosiddetto RAV, lo consegnavi allo sportellista e pagavi, se non sbaglio, in alcuni casi un euro. Più di qualche volta però siamo riusciti ad abbattere i costi del RAV tra associazioni consumatori e poste, e soprattutto per le persone meno abili. Adesso invece come funziona? Che anziché andare solo alle poste o andare solo al tabaccaio o andare solo da qualche altra parte, le pubbliche amministrazioni sono state obbligate ad aderire a questo sistema, che non è un sistema, cioè non è una nuova moneta della pubblica amministrazione di natura virtuale, o non è un'infrastruttura della pubblica amministrazione, no, è un'infrastruttura che ti permette semplicemente di far comunicare tra loro tantissimi, decine di sistemi che sono diversi tra di loro, che vanno dal sistema delle poste a quello delle banche che si chiama Sibil, a qualsiasi altro meccanismo che è non banking e così. Questa roba qua, questa infrastruttura di pagamento, La pubblica amministrazione questa volta ha deciso di metterla a carico dei consumatori. In realtà dice nelle FAQ, no, anche prima c'erano le commissioni, però questa volta abbiamo deciso di farle vedere in evidenza. Non erano commissioni di questa natura, però io sapevo che pagavo il costo del bollettino 1,20 euro alle poste, poi che il comune del mio paese aveva un costo per sostenere i pagamenti delle multe o quant'altro, io non lo sapevo, non era dato sapersi, però in realtà anche lì la questione è il comune che se ne caricava i costi. In questo caso invece i costi sono stati ribaltati interamente sui consumatori. Loro ipotizzano che uno sviluppo di mercato all'interno di questi prestatori di servizi di pagamento dovrebbe far abbattere il prezzo dei singoli servizi, ma come sappiamo, una volta che sono usciti i buoi è difficile richiudere la strada. Beh, magari una persona però preferisce utilizzare questa innovazione tecnologica, ma sostenere un piccolo costo piuttosto che stare un sabato mattina un'ora e mezza alla posta perché ti devi fare il pagamento di tutti i bollettini che hai lasciato lì mollati. Poi pensiamoci, scusate, chiedo scusa anche a Luigi Gabriele, pensiamoci però dopo il traffico. Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Due di denari. And we're down, we go. Non so perché, ricominciamo con Paolo Nutini, credo sia Paolo Nutini questo, poi chiedo conferma. Perché è una bella canzone. Lombardo. Ah, per questo, in a questo volte momento. Ci possono essere delle motivazioni molto semplici dietro le scelte. Di tipo estetico, esatto. Così come il passaggio a PagoPA e all'app Io, non so, può essere molto soddisfacente. Caligiuri ci fa un esempio molto banale, non so, ecco, ho ricevuto, speriamo di no, La multa per superamento del limite di velocità è il 1° di marzo e il sindaco molto solerte mi dice che devo passare proprio attraverso la piattaforma PagoPA. Quindi che cosa posso fare? Ecco, sì, possiamo fare un passo indietro un secondo rispetto al tema delle commissioni, perché è un tema importantissimo e diciamo che in senso generale ben venga il lavoro di presidio che fanno tutte le associazioni di consumatori, che anzi insomma io mi auguro che di avere in futuro sempre più momenti di contatto, di collaborazione, perché in realtà l'obiettivo è comune, nostro e loro, cioè quello di dare un'esperienza utente e di semplificare la vita dei cittadini. Però proprio per questo io credo che sia corretto dare fare un po' un quadro di informazione più preciso. Allora, le commissioni sui pagamenti sono sempre esistite prima di PagoPA e esistono adesso. Non le ha introdotte PagoPA, che è totalmente neutra rispetto al tema delle commissioni. Le commissioni esistono perché è la somma che noi paghiamo, che si paga, per assicurare certezza della stessa transazione. Oggi queste commissioni sono messe in trasparenza sul sistema di PagoPA, ma c'è di più, se posso dire, che con PagoPA di commissioni complessivamente intese se ne pagano di meno e non di più di quanto accadesse in passato. Prendo esattamente l'esempio che ha fatto il dottor Gabrieli a proposito della multa. Allora, con la multa, quando prima prendevo una multa, mi recavo all'ufficio postale, pagavo il mio bollettino, il dottor Gabrieli ha citato anche la cifra, 1,20 euro, e pagavo la multa. Oggi, tra i tanti sistemi di pagamento di PagoPA, ce n'è uno comodissimo, che credo che è quello che poi spesso dovrebbe essere più utilizzato facilmente dai cittadini che lo usano, che è l'addebito in conto, quindi l'addebito sul proprio conto, che consente per molti istituti zero commissioni. Quindi prima pagavo e adesso non pago, proprio sulle multe. Questo addebito, prego. Ora è evidente, perché lo ha accennato Gabriele en passant, mi scuso dottor Gabriele, l'ha accennato en passant. Ci sono dei casi, e l'esempio tipico è il MAB, in cui in precedenza la singola amministrazione, le amministrazioni si facevano carico della commissione che, ribadisco, esisteva anche prima, solo che a volte era inglobata nel costo, altre volte non si vedeva e a volte, come nel caso dei pagamenti con il MAV, se ne faceva carico la pubblica amministrazione, cosa che può accadere benissimo anche adesso. Cioè PagoPA da questo punto di vista è neutrale rispetto alla situazione, l'amministrazione potrebbe farsene carico uguale, alcune amministrazioni decidono di non farlo e questo è un tema, ma che è del tutto indipendente dal meccanismo di funzionamento di PagoPA. Io questo vorrei che fosse il più possibile chiaro, è una scelta del singolo ente. Sì, è chiarissimo. Mi consenta solo una cosa, perché è un tema che giustamente, ma lo dico anche da cittadino, ho molto a cuore. Allora, proprio grazie a PagoPA, che ha messo insieme, lo ricordavate anche voi, tutti i possibili metodi e strumenti di pagamento, è possibile un progressivo abbassamento delle commissioni. E le dico una cosa, nelle prossime settimane, siccome è un tema che noi abbiamo a cuore e su cui stiamo lavorando, nelle prossime settimane avrete già evidenza o notizia una buona notizia in tal senso. Ora, questo però è importante a livello, secondo me, di sistema istituzionale, che noi teniamo presente che accade proprio perché esiste PagoPA, che ha centralizzato, reso uniforme e ingegnerizzato il sistema di versamento di tributi dai cittadini verso la pubblica amministrazione, perché altrimenti prima, con un meccanismo parcellizzato e decentralizzato, si lasciavano i singoli comuni, le singole piccole amministrazioni a trattare 1-2 accordi con 1-2 prestatori di servizi a pagamento, con evidentemente l'impossibilità, anche sul piano proprio della forza contrattuale, di abbassare i costi di commissione. Dottor Caligiuri, noi siamo in chiusura, ci manca un minuto. Una domanda flash per concludere. Allora, guardi, facciamo che faremo un bel percorso da qui a febbraio per far capire bene che cosa sta succedendo. Io ho due abitazioni, una a Milano e una nelle Marche. Per l'abitazione di Milano mi è arrivata la richiesta della Tari a un QR code e posso fare il pagamento con questa nuova modalità. Per la casa nelle Marche invece mi è arrivato un F24 normale e nessun'altra alternativa. Questo significa che le amministrazioni che sono un po' indietro dovranno adeguarsi o potranno mantenere questo standard tradizionale per consentire ai cittadini di pagare i tributi? Ovviamente, come dicevo prima, noi puntiamo a un adeguamento di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 28 febbraio. Siamo dentro, per farla breve, come dicevo prima, una transizione, ovviamente. Quindi diciamo che il nostro auspicio è che dal 1 marzo le amministrazioni, senza pregiudizio alcuno per i cittadini e senza, diciamo, senza appunto, ripeto, senza pregiudizio alcuno per i cittadini, siano riuscite tutte a stare sul sistema PagoPA. In ogni caso, consapevoli che stiamo dentro, ripeto, una fase di transizione. Ma certamente. Che allora, vi ringrazio perché purtroppo abbiamo esaurito il tempo, però invito entrambi, Luigi Gabriele è spesso a nostra disposizione, anche lei, dottor Caligiuri, non lasci il paese, resti a disposizione di Due di Denari perché dovremo nuovamente tornarci. Grazie a tutti. Ora. È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.